Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Studio veterinaria, sono dal primo anno fuori corso, appunto perché non posso frequentare e tra i ricoveri e le cose studio ed ho gli esami e c'è tutto un programma apposta per me per riuscire ad andare avanti. Il mio obiettivo appunto è laurearmi per salvare gli animali, però vi devo dire che ancora ad oggi la sperimentazione animale in Italia è necessaria e obbligata, di dove non ci sia però un metodo alternativo valido. Mentre per quanto riguarda i farmaci, nella fase preclinica, cioè prima di sperimentarlo sull'uomo, deve essere sperimentato sull'animale, il che non è per forza una cattiveria, perché gli animali hanno anche loro bisogno di farmaci. Quanto è necessario esporsi per essere messi alla gogna, per essere condannati a morte dall'opinione generale, che poi ha il peso che ha, però è significativa comunque di uno stato d'animo? Io penso che avrete letto tutti questa mattina nei giornali, se ne parla già ieri nei telegiornali, la storia di Caterina Simonsen, una ragazza di 25 anni che ha, attraverso la rete, prima attraverso il suo profilo Facebook, poi attraverso alcuni video che sta postando in rete, ha fatto un gesto probabilmente molto controcorrente riguardo ai luoghi comuni, che poi vengono anche smentiti quando poi le campagne stampa devono prendere coscienza di quelli che sono dei dati concreti. E abbiamo proprio parlato giorni fa del caso Stamina, legandolo all'idea delle scie chimiche che influirebbero sul malessere generale dell'umanità, e addirittura proprio in queste ultime ore c'è ancora in rete chi scrive che il terremoto che in questi giorni c'è stato come sciame sismico, almeno in Italia, che ha colpito la Campania, che ha colpito parte dell'Umbria, beh, anche questo è determinato dalle scie chimiche. Già subito c'è il rapporto fra sintomo della scia chimica e terremoto. Beh, invece Caterina un giorno ha messo questa sua foto, lei con una malattia molto grave, di lei con la mascherina, con tutti i vicini della flebo, con il respiratore, dice: io sono Caterina, ho 25 anni, grazie alla vera ricerca, che include anche la sperimentazione animale, non sarei morta, sarei morta a 9 anni. Quindi io sono per la vera ricerca. Prendeva posizione proprio sul caso Stamina e diceva, invece di andare dietro alle cialtronate, alle illusioni, ai miti, alle fantasie, teniamoci ben legati a quella che è appunto ciò che c'è di concreto riguardo alla ricerca. Lei poi studia veterinaria, quindi non è certo una denigratrice del mondo animale. Cioè, studierò, lavorerò, farò di tutto perché gli animali abbiano la massima garanzia e la massima possibilità di felicità. Però vi dico, io a 9 anni ero morta. Beh, cosa è accaduto? È accaduto che quando questa sua dichiarazione è diventata pubblica, il suo profilo Facebook è stato letteralmente sommerso da messaggi estremi, dicono: ma per noi era meglio che tu morivi a 9 anni infame piuttosto che tanti poveri animali soffrissero per causa tua. È venuta fuori una vena di pensiero, l'abbiamo toccato, l'abbiamo lambito, l'abbiamo approfondito anche con i diretti interessati già da qualche mese, quando appunto accadde che in un blitz improvvisamente alcuni animalisti esasperati irruppero in un centro dove si faceva ricerca a Milano, rovesciarono gli stabulari per salvare alcuni topolini che erano lì come ostaggio, dando anche possibilità di distruzione a una ricerca importante su malattie rare, su malattie molto importanti. Per loro era importante che i topolini fossero salvati, poi se li sono portati a casa e poi capiremo qual è stato l'esito di quelle cavie. Beh, voi come la pensate? Voi pensate che veramente sia giusto dire a un essere umano: muori a 9 anni perché la sua sopravvivenza è data da alcuni animali da laboratorio sui quali è stata fatta una corretta sperimentazione secondo i parametri internazionalmente accettati? 800240024. Sono viva grazie ai farmaci, perché sono finita già 4 volte in rianimazione e più volte i medici dicevano ai miei genitori che non capivano come mai ero ancora viva. Io sono viva grazie ai medici, ai farmaci, grazie anche agli animali che sono stati sacrificati per trovare quei farmaci. E mi hanno detto: meglio 10 topi vivi che non te viva. Boh, cioè, non lo so dove vivete, da chi siete stati cresciuti. Questo è quello che emette nella sua area web Caterina. ha chiesto a tutti i giornalisti non disturbarla. In questo momento ha un momento acuto, ha una polmonite, quindi sta particolarmente male, non ha voglia di parlare. Quello che deve dire, secondo una maniera modernissima, attualissima, contemporanea, come vedete efficace, lo dice attraverso i suoi video. L'avete sentita, avete sentito la sua voce. Qual è il vostro punto di vista? Edoardo, buongiorno. Buongiorno a tutti, agli ascoltatori. Sì, io ho seguito molto questa vicenda, ho apprezzato il suo coraggio, perché vivendo in questa situazione avrà potuto vivere sulla sua pelle l'importanza di questa ricerca. E poteva anche stare zitta, nessuno le avrebbe detto niente, continuava le sue cure. In realtà lei si è esposta, sì, perché crede fortemente. In fondo lei è una che studia per diventare una scienziata, perché studia veterinaria, studia per cercare di dare anche un suo contributo, non è che sta lì a aspettare il tempo che passi. Quindi se l'è sentita probabilmente di dare un segnale forte, mettendosi però in gioco e prestando il fianco comunque a questa sorta di furia talebana, quando anche la passione per gli animali diventa una religione integralista, bisogna cominciare a preoccuparsi, secondo me. Ma infatti è la malattia che in qualche modo la mette in una situazione, in una realtà difficile. È un male necessario quello che tutti potremmo evitare questa cosa, ma è evidente che in un momento in cui si vive in quelle condizioni gli argomenti cambiano, perché siamo tutti animalisti nel momento in cui siamo. Io però vorrei, grazie Edoardo, stanno già chiamando molte persone. Velocemente Ivan, così almeno abbiamo un parere contrario. Ivan, buongiorno. Buongiorno. Sì. Dunque, io innanzitutto volevo dire che non sono assolutamente d'accordo sugli attacchi e gli insulti che sono stati fatti a questa ragazza. Sono convinto che la ragazza ha parlato in buona fede, però d'altra parte sono anche convintissimo che la ricerca fatta con gli animali non è assolutamente una ricerca scientifica. Lei cosa fa di mestiere, Ivan, scusi? No, io di mestiere faccio il pensionato attualmente. Però sono anni che faccio attività in campo con gli animali e le riporto quello che dicono medici che sono antivivisezionisti, non in quanto animalisti, cioè in quanto dicono fa me, magari del singolo animale. Secondo lei nel nostro paese esiste la vivisezione? Certo che esiste la vivisezione. Allora, fermi un attimo, resti in ascolto, non la voglio contraddire. Carlo Alberto Redi, buongiorno. Professore, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Col professore ci siamo già sentiti quando il 26 aprile 2013 fu un blitz animalista che distrusse anni di ricerca su malattie neurologiche per salvare una decina di topi, 100 topi e un coniglio. Erano ricercatori del CNR, rimasero molto male, ci sentimmo varie volte. Come risponde lei al nostro ascoltatore Ivan, che dice che non c'è principio scientifico nella ricerca animale e che in Italia esiste la vivisezione? Dunque, innanzitutto vivisezione va cancellato come termine. Non esiste. Un termine anacronistico, è un reato, si va in prigione, non è vivisezione, lo è stato nei secoli passati, è sperimentazione animale. E qual è la differenza? Punto, lo spieghiamo ancora una volta, abbiamo già fatto altre volte. Nella sperimentazione animale, l'animale è con tutte le cure possibili e immaginabili trattato nei termini della sofferenza infinitesima minore, è anestetizzato. Questi sono protocolli internazionalmente riconosciuti dalla comunità scientifica. Ma in prigione, ma al ricercatore stesso non conviene, perché sarebbe inattendibile il dato. Questo punto deve essere accettato anche da questi signori animalisti, se no la discussione non sta in piedi. È un reato, lo va detto a questi ascoltatori. Ma secondo lei perché ancora ci si continua a rafforzare su parole di passo le foto dei gattini con gli elettrodi, la famosa scimmietta con la testa tagliata, tutta una serie di... Ma senta, è molto semplice, queste immagini non hanno una didascalia. Quando questi signori impressionano il pubblico facendo vedere queste immagini, devono avere la correttezza di dire da dove vengono, dove, come, quando. Non hanno una leggenda, sono assolutamente prese da periodi passati e fuori legge. Professor Carlo Alberto Redi, perché ancora però si dice la ricerca e la sperimentazione animale non è scientificamente attendibile? Perché questa parola di passo passa? No, ma questo è un uso improprio fatto da persone che non hanno conoscenza dei termini, dei contesti. Qui bisognerebbe intervenire con delle campagne di educazione, come chiede giustamente la giovane Caterina, che ha dimostrato un buon senso e una maturità eccezionali. Cioè, va ribadito, l'impresa scientifica si è fatta carico di questi problemi dal 1959, ma prendiamo i dati del Ministero, abbiamo ridotto di più del 50% l'uso degli animali, i metodi alternativi quando disponibili convengono, prima ancora che essere accettati ideologicamente, convengono alla Big Pharma, al ricercatore. E quindi, cioè, le famose multinazionali farmaceutiche delle quali saremo tutti schiavi e tutti al soldo, io stesso per primo, perché ho sorriso sulle scie chimiche e in tempi non sospetti dicevo che era una cialtronata il fatto di Stamina, oggi sono tutti d'accordo perché non se ne può dire altrimenti. Ecco, mi dice esattamente cosa avrebbero da guadagnare se non soddisfare un loro spirito sadico da provare senz'altro nel fare una sperimentazione sui poveri animali inutile? Ma assolutamente nulla, ma è dimostrato dai dati economici, che sono quelli che comandano. Utilizzare animali costa in tempo e in denaro una quantità enormemente maggiore, ergo l'impresa commerciale, che non è un'impresa di beneficenza, appena possibile ne fa a meno. Fermo, ma professore, oggi... abbiamo Giovanni, sentiamo Giovanni. Sì, salve, buongiorno a tutti. Niente, volevo dire che praticamente la ragazza ha espresso una sua opinione. Oggi in Italia sulla sua pelle l'ha espressa. Certo, dico, ha espresso una sua opinione proprio perché è derivante dalla propria esperienza. E tutti già ad aggredirla su Facebook, sui network, a fare i giudici, i moralisti. Ma dico, ma perché, faccio un esempio, in Cina si mangiano i cani, tutto questo bailam non c'è su Facebook, non lo vedo. No, cioè figuriamo, siamo pieni di foto di mercatini estremo orientali, sì, con cani scuoiati esposti, guarda che bestie, che animali. Sì, vabbè. Sì, ma dico, è un'opinione, dico l'opinione, poi in Italia c'è la caccia alle streghe perché una persona esprime un'opinione proprio sulla... Beh, è un po' di venire a caccia alle streghe, che ormai si è diventato un sentimento così, secondo me, irrazionale. Ma così... lei pensa che sia un sentimento o che sia una moda ormai? Cliccare su Facebook e dire la propria. Lei ha ragione, in effetti, non è che sia una moda, è una facile maniera per esprimere un proprio parere senza poi prendersi nemmeno le conseguenze. Cristian, buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletti. Niente, volevo esprimere appunto anch'io la mia opinione e dire che veramente non se ne può più di questo finto moralismo. Vorrei solo citare, mi pare, non so se sia intervenuto qualche mese fa nella sua trasmissione un ospite che faceva un paragone molto, molto azzeccato, e cioè se su Facebook si mette una faccetta di un animale che praticamente è orfano, vengono tipo pubblicati 10 miliardi di mi piace, no? E se la stessa foto invece di un animale, di un cagnolino, di un gattino, viene messo un bambino in Africa che muore di fame, si ottengono meno della metà del mi piace. Questo sta proprio a indicare ormai è proprio questo finto moralismo, io lo definisco. Non è proprio un moralismo, secondo me, poi ognuno... è una deriva per cui si è perso un po' il senso della gerarchia necessaria nel campo della attenzione agli esseri umani. Se viene detto e pensato che una massa di topolini che non, nessuno sadicamente sottopone a dei supplizi per proprio gusto, ma semplicemente usa come cave per una sperimentazione per salvare vite umane, vuol dire se è perso il senso della diversità di rango fra un essere umano e un topolino. Io la difendo e continuo a prendermi la responsabilità di dire un essere umano vale molto più dei topolini, e detto questo non ci tengo alla sofferenza dei topi, non mi dà nessuna soddisfazione, non penso che se potessi farne a meno ne farei meno molto volentieri, ma di fronte a una ragazza che dice a 9 anni sarei morta se non avessi fatto sperimentazione per i farmaci che mi danno, non viene nemmeno lontanamente l'idea di dire infame, era meglio che morivi te che i poveri topolini. Ci fermiamo solo un istante. Penso tutta questa terapia qua che mi occupa tante ore della mia vita, perché quel macchinario prima che vi ho fatto vedere che shakerà il muco dei miei polmoni, le sedute durano un'ora e lo devo fare da 2 a 4 volte al giorno, a volte in ospedale me lo fanno fare anche ad ore alterne, cioè lo tengo un'ora su un'ora No, comunque, spesso non bastano e quindi devo fare... Questa Caterina che ha dato forma tangibile, concreta, visibile a quello che è il dolore, la sofferenza di un essere umano con una malattia impegnativa, che dice però se non ci fosse stata una sperimentazione farmacologica particolare che prevede anche l'uso di cavie animali, io sarei già morta. Il parere che abbiamo chiesto è quello del professor Carlo Alberto Redi, che avete sentito, che è un professore ordinario di zoologia presso l'Università di Padova, professore presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori, ma anche accademico dell'INCEI, socio onorario della Società Genetica del Cile, autore di vari articoli di studi scientifici. Con lui siamo spesso trovati a parlare di questo argomento. Ribadiamo il concetto, visto che mi sembra necessario al di là dell'aspetto emotivo. Professor Redi, l'ultimo punto di chiarimento, questo che lei ha un impegno, sul fatto che in realtà quali sono le patologie di maggiore frequenza che non sarebbero comunque trattabili se non ci fosse stata sperimentazione animale, che ripeto non è vivisezione, è inoculare a delle cavie alcuni trattamenti e vedere l'effetto che fa. Le cavie possono anche morire, ma ci sta nella necessità di salvare vite umane. Ma non c'è dubbio, cioè, guardi, non c'è un elenco di patologie, perché lo sono tutte. Se oggi viviamo come viviamo e ci è dato di vivere in questo modo, anche a questi signori ideologicamente fuorviati che senza alcun fondamento di dato corretto e scientifico parlano di cose veramente prese da furia ideologica. Da noi vede che prevale il sentito dire e letto in internet, ma piuttosto non c'è il dato scientifico, ci sono dati dei ministeri ufficiali, basta prendere quelli, l'impresa scientifica si è fatta carico di questo problema. Se loro vivono come vivono e frequentano amici, hanno disposizione, cioè è dovuto a questo, è dovuto al fatto che l'uomo dal fuoco, la pietra, Darwin, cioè è stato in grado, impiegando animali, lo ha fatto come necessità storica, entro breve, sicuramente nel giro di qualche decennio, riusciremo probabilmente ad uscire ad avere solo sistemi cellulari. Ci dovremmo porre anche il problema comunque della derattizzazione delle città, e non capisco perché il ratto derattizzato ha meno dignità del topolino di cavia, allora. Sì, certo, ho dei batteri che vengono schiacciati, ho delle zanzare, cioè è una furia ideologica, bisogna insistere con trasmissioni importanti di questo tipo, come un'educazione, come chiede la giovane Caterina, che va rispettata, è inaccettabile anche il metodo. Cioè non è concepibile che un sistema così bello, innovativo e forte come i social networks venga impiegato per azioni di bullismo. Andrebbero punite. Però sa, professore, io sono forse più cinico, lei dico, è giusto che emerga ciò che giace sottoterra, sommesso. Questo dà l'idea di una incultura, di ignoranza totale nel nostro paese. Profondo. Se noi siamo andati avanti quasi un anno sulla vicenda Stamina, con dei grandi dubbi anche a livello istituzionale, soltanto oggi, perché ci sono alcune certezze, tutti improvvisamente diventano paladini della ricerca scientifica, e anche perché con lei molto tempo fa ci siamo anche adoperati, prendendone anche il nostro carico di insulti, di sottolineatura di quanto siamo schiavi delle multinazionali, delle case farmaceutiche, di quanto della CIA, di tutto messo insieme, abbiamo fatto il nostro dovere. Grazie professor Redi. Marco, buongiorno. Buongiorno, salve, io sono un giovane aspirante scienziato che studia presso la facoltà di biologia e genetica a Roma. E devo dire che al di là della fondatezza ideologica vuota di queste persone che appunto attaccano questa giovane ragazza, che come lei ne vengono salvate milioni nel mondo grazie alla sperimentazione sugli animali, io non riesco a capire perché queste persone continuano, a causa della loro compassione, al loro sentimentalismo verso gli animali, a dar maggior rilievo a un ratto, a un nematode, a qualsiasi altra forma animale piuttosto che all'uomo, tant'è vero che questa giovane ragazza è stata ampiamente insultata da queste persone. Lei tratta con animali nel laboratorio facendo... Sì, trattiamo con animali e devo dire, cioè, come ha detto giustamente il professor Redi, la sperimentazione viene fatta in alcuni casi con appunto sotto anestesia, in altri casi viene fatta senza anestesia, per esempio per quanto riguarda a livello cerebrale, non possiamo andare a introdurre delle tossine, appunto delle sostanze che anestetizzerebbero l'animale e quindi vengono anche fatte senza. Questo lo dico per ragioni scientifiche, perché non bisogna dare un'informazione sbagliata. No, ma io sono per la concretezza. A me non sconvolge questo, onestamente. Sono più cinico di lei. No, ma non sono cinico, sono concreto. Lei deve diventare uno scienziato e salvare vite umane. Se questo comporta, lei deve lavorare nel cervello di un topolino senza anestesia. Falso dovere, non ci vedo nulla di strano. Le cose vanno dette, non loro nome. Mauro. Buongiorno a lei. Sì. Ho due sensazioni. La prima, che ci sia un megafono esagerato per la convinzione di poche persone in merito alla vicenda della signorina, perché è talmente fuori da qualsiasi logica di intelligenza le cose che hanno detto e scritto, che credo che siano veramente di così talmente poche persone. Posso fare una struttura, Mauro? Noi siamo reduci al caso Stamina, in cui c'erano persone accampate che si tagliavano, che schizzavano sangue e giravano foto di bambine sofferenti, e si è rischiato veramente che qualcosa che non ha nessun fondamento, nessun valore scientifico, portato avanti da una persona che non era nemmeno medico, diventasse qualcosa che veniva ufficialmente accettato, facendoci ridere dietro da tutta la comunità scientifica del mondo. Quindi vede che queste cose non è che poi affondano soltanto l'idea di pochi, diventano immediatamente pastura per l'opinione pubblica. Quindi è importante, secondo me, che vadano sottolineati. L'opinione pubblica sia a favore della signorina. Di conseguenza, se sono così pochi quelli che la interpretano in questo modo, non vorrebbero neanche considerati. Un'altra cosa che ho fatto... Sì, prego. Concluda. Che mi sento ultimamente, sa che cos'è? Io per carità voglio bene agli animali, voglio li rispetto le persone che li amano, ma io non ho piacere, per esempio, che a casa mia vengano a casa delle persone con... Le faccio un esempio, SMS che mi è arrivato, scusi un attimo, SMS che mi è arrivato adesso, per dire, non è che poi così. Professore di merda, speriamo che il cancro se lo porti via, lurido schifoso. Questo è uno che è arrivato. Preferisco morire che vivere grazie alla ricerca animale. Le cave usiamo le persone. Quello che parla, ammazziamolo. Vede che non è che arriva soltanto nel sito di Caterina, arriva anche agli SMS di Radio 24, capito? Quindi esiste il problema dell'incultura, dell'ignoranza e della rozzezza. Non è che lo sottovalutiamo. Concluda, Mario. Stavo dicendo che su 60 milioni di persone ce ne stanno anche 1000 che non capiscono niente e hanno un'intelligenza molto molto ristretta. Vabbè, noi siamo qui per prendere le distanze da questi. Serafina, perché concludo. Serafina. Sì, ecco. Non stiamo parlando della sperimentazione su animali, molto, capisco, molti molto scandalizzati, ma è stata fatta una sperimentazione anche sugli esseri umani, e non parlo di quella terapeutica dei policlinici, parlo di quella che è stata fatta nei paesi del terzo mondo da parte di grosse case farmaceutiche, all'insaputa di tutti. E lei come mai lo sa? Si legge John le Carré. Adesso non ricordo il titolo del romanzo, ma è... Ah, beh, diciamo, il suo fondamento scientifico è un romanzo. Va bene, Serafina. Andrea, non la voglio tagliare, ma... Anche alle cazzate le bisogna dare... Io credo, Andrea, che il punto sia proprio questo, e cioè che con la fatica a reperire delle informazioni con dei fondamenti chiari e concreti, con delle bibliografie e gli strumenti che non tutti in questo momento hanno a disposizione, sinceramente, basta leggere gli SMS che gli sono arrivati. Il problema è proprio questo, cioè qual è la verità su questa faccenda e su molte altre in realtà, dalle scie chimiche che lei citava in trasmissione in giù? Cioè, è vero quello che dice la ragazza o è una balla? È tutto lì il problema. Cioè, una balla, se lei è viva è perché l'hanno curata con dei farmaci. Un accademico dell'INCEA ci ha detto che oggi non vivremmo se non ci fossero dei farmaci, che tutti i farmaci sono ottenuti con sperimentazione su animali, quindi non saremmo noi, io e lei, a parlare probabilmente se non ci fosse stato. Non ho un'opinione a riguardo, non sto mettendo il carro davanti ai buoi, non sto né perdonando la causa di uno né dell'altra fazione, sto semplicemente dicendo che quello che ci permette di fare una discussione del genere, che a mio avviso non ha alcun senso, è il fatto che molte persone possono mettere in dubbio che quello che dice la ragazza sia vero, tutto qua. Posso mettere in dubbio, lo sa perché, secondo me, ma dal mio punto di vista opinabile, perché oggi abbiamo il grande privilegio della contemporaneità, che abbiamo a disposizione tutti un'infinità di fonti che non avevamo prima. Io faccio il giornalista da 30 anni, lo dico più volte, All'inizio, mi ricordo, le fonti andavano cercate in maniera disperata. C'erano alcune agenzie di stampa che arrivavano soltanto nelle sedi di giornali, si andavano nelle biblioteche, negli archivi dei giornali, si andavano a cercarle di prima mano. Oggi, rispetto a quello che avevo a disposizione 30 anni fa, chiunque con uno smartphone in mano ha milioni di volte più. Ma questo non significa che lui ha gli strumenti per avere un'opinione corroborata in termini concreti, in termini scientifici. Sa tante cose. Se non ha la base per discernere, è chiaro che il sito che parla delle esce chimiche o degli UFO, degli extraterrestri, ha lo stesso valore di un'area web di una comunità scientifica che li mette le sue pubblicazioni. Andrea, da Roma. Buongiorno, io vorrei aggiungere un mattone a questa discussione che insieme a questa lotta incredibile degli animalisti c'è anche la lotta contro le vaccinazioni. Allora, io ho una testimonianza lo so benissimo. Io ho un figlio autistico, una delle leggende metropolitane che ancora mi causano grande dolore e sofferenza fra i miei colleghi è che ci sono persone che ancora, e la televisione pubblica le ospita e le fa parlare, dicono che la causa di alcune malattie come l'autismo è data dalle vaccinazioni, cosa scientificamente totalmente rinnegata. Prego. Io ho due figli africani, quindi andare in Africa, adottivi ovviamente, andare in Africa e vedere ancora oggi bambini che soffrono la poliomielite, che muoiono per il morbillo, la rosolia, perché le vaccinazioni non sono complete e non arrivano giù. E questa è la dimostrazione poi che la medicina salva vite umane anche se sperimenta su animali. Anzi, speriamo che sperimenti sempre su animali e che poi ci passi le cure. Io ho visto bambini poliomielitici, cosa che queste persone probabilmente in Italia non vedono più. Certo, non si vedono. Quindi più. Non hanno idea assolutamente di cosa siano le malattie. E c'è addirittura tutto un filone su Facebook, ma sui social, ma in giro, che le vaccinazioni fanno male. Certo, guardi, l'ultimo post che ho girato, le persone che parlano di autocura bevendosi la pipì, sembra che questo risolva ogni problema. È un momento molto particolare questo, di grande espansione ma anche di grande arretratezza. L'avere a disposizione un'infinità di stimoli non è detto che renda le possibilità alle persone di essere positivamente stimolate. Noi facciamo il nostro possibile nel nostro modesto lavoro. Grazie agli ascoltatori. A domani.